Se l'uomo coltiva l'educazione di sentimenti, pensieri e stati d'animo nel modo descritto nei video sulla preparazione, l'illuminazione e l'iniziazione, ottiene nella propria anima e nel proprio spirito una struttura simile a quella che la natura ha prodotto nel suo corpo fisico. Prima di tale educazione, l'anima e lo spirito sono masse non strutturate. Il chiaroveggente li percepisce come vortici nebulosi a spirale che si intersecano e si presentano per lo più con debole lucentezza rossiccia, bruno rossiccia o anche rossiccio giallastra. Dopo quell'educazione cominciano a risplendere spiritualmente come colori verde giallognolo o turchino verdastro e presentano una struttura regolare. L'uomo arriva a tale struttura regolare e con essa alla conoscenza superiore se nei suoi sentimenti, pensieri e stati d'animo stabilisce un ordine analogo a quello che la natura ha stabilito nei suoi organi corporei, grazie ai quali egli può vedere, udire, digerire, parlare e così via. Il discepolo dell'occultismo impara così gradatamente a respirare e a vedere con l'anima, ad udire e a parlare con lo spirito. Esamineremo più in particolare soltanto alcuni dei punti di vista pratici pertinenti all'educazione superiore dell'anima e dello spirito. Sono tali che in sostanza ognuno può seguirli a prescindere dalle altre norme. Grazie ad essi ognuno può andare un bel tratto avanti nella scienza occulta. Bisogna attendere ad uno speciale sviluppo della pazienza. Ogni moto di impazienza esercita un effetto paralizzante, anzi letale, sulle capacità superiori latenti nell'uomo. Non si deve pretendere che dall'oggi al domani si schiudano orizzonti infiniti nei mondi superiori, perché allora di solito non si rivelano affatto. Invece, la nostra anima, per ogni più piccolo risultato, deve essere sempre piena di soddisfazione, di calma e di serenità. È ben comprensibile che il discepolo aspetti con impazienza dei risultati, ma non arriverà niente finché non avrà dominato la sua impazienza. Né serve lottare contro tale impazienza nel senso ordinario della parola, poiché non farebbe che crescere. Ci si illude di averla vinta, mentre invece si è insediata sempre più nelle profondità dell'anima. Si ottiene qualcosa soltanto abbandonandosi sempre di nuovo ad un determinato pensiero, facendolo del tutto proprio. Esso è: devo far di tutto per educare la mia anima e il mio spirito, ma aspetterò con calma che le potenze superiori mi giudichino maturo per una certa illuminazione. Se questo pensiero assume tale forma in noi da forzare una disposizione del carattere, allora si è sulla giusta strada. Questa disposizione del carattere si manifesta anche esteriormente. Lo sguardo diventa calmo, i movimenti sicuri, le decisioni esatte e tutto ciò che si chiama nervosità sparisce a poco. Vanno allora considerate piccole norme in apparenza insignificanti. Supponiamo per esempio che qualcuno ci offenda. Prima dell'educazione occulta il nostro risentimento si sarebbe volto contro l'offensore. La collera avrebbe invaso la nostra anima. Invece, nel seguace dell'occultismo sorge subito il pensiero: l'offesa non cambia nulla al mio valore. Ed egli compie allora ciò che vi è da fare per far fronte all'offesa, con calma e serenità, senza essere animato dalla collera. Non si tratta naturalmente di sopportare ogni offesa, ma di rimanere altrettanto calmi e fermi nel punire un'offesa contro la propria persona, quanto lo si sarebbe se quell'offesa fosse stata diretta contro altri e si avesse il diritto di intervenire. Bisogna sempre tener conto che l'educazione occulta non si svolge in procedimenti esteriori grossolani, ma in trasformazioni delicate della vita del sentimento e del pensiero. La pazienza attira i tesori del sapere superiore, l'impazienza, invece, li respinge. Nelle regioni superiori nulla si consegue con la fretta e l'irrequietezza. Soprattutto devono tacere desideri e passioni. Sono qualità dell'anima dinanzi alle quali ogni sapere superiore si ritira timidamente. Per quanto grande sia il valore della conoscenza superiore, non bisogna esigerla se si vuole che venga a noi. Chi la desidera per soddisfazione propria non la consegue mai. Occorre perciò anzitutto che nelle profondità dell'anima si sia sinceri con se stessi. Non ci si deve illudere in alcun modo sul proprio conto. Con sincerità interiore si devono guardare in faccia i propri difetti, le proprie debolezze e mancanze. Nel momento in cui cerchi di scusare davanti a te stesso qualche tua debolezza, ti poni un ostacolo sulla via che deve condurti in alto. Puoi rimuovere tali ostacoli soltanto chiarendoli in te stesso. Esiste una sola via per spogliarsi dei propri difetti e delle proprie debolezze: riconoscerli esattamente. Tutto sonnecchia nell'anima umana, tutto può essere destato. Si può migliorare anche il proprio intelletto e il proprio criterio, rendendosi conto con calma e serenità della causa della propria debolezza. Tale autoconoscenza è naturalmente difficile, perché la tentazione di illudersi sul proprio conto è grandissima. Chi si abitua alla verità verso se stesso si apre la porta alla visione superiore. Nel discepolo dell'occultismo deve svanire ogni curiosità. Per quanto è possibile, egli deve perdere l'abitudine di fare domande su argomenti che desidera conoscere soltanto per soddisfazione della sua personale sete di sapere. Deve limitarsi a chiedere ciò che può servire al perfezionamento della propria entità, ai fini dell'evoluzione. La gioia e la devozione, però, che egli prova per la conoscenza, non devono affatto venir meno. Deve ascoltare con attenzione tutto ciò che serve a raggiungere tale scopo e cercare ogni occasione per dedicarvisi. Per l'educazione occulta è in special modo necessario educare la vita del desiderio. Non ci si deve spogliare di ogni desiderio, poiché tutto ciò che dobbiamo conseguire deve essere anche desiderato e un desiderio verrà sempre esaudito se ha dietro di sé una particolare forza, forza che proviene dalla giusta conoscenza. La massima "non desiderare in alcun modo prima di aver conosciuto quel che è giusto in un dato campo" è una delle norme auree per il discepolo dell'occultismo. Il savio impara prima a conoscere le leggi del mondo e poi i suoi desideri diventano forze che si avverano. Diamo qui un esempio di cui è chiara la portata. Certo, molti desiderano conoscere per visione propria qualcosa della loro vita prima della nascita. Un tale desiderio non ha scopo né risultato finché l'interessato non abbia assimilato, con lo studio scientifico-spirituale, la conoscenza delle leggi di ciò che è eterno, precisamente nel loro carattere più delicato ed intimo. Se ha veramente acquistato questa conoscenza e se allora vuole avanzare, lo potrà fare col suo desiderio nobilitato e purificato. Non giova neppure dire "desidero conoscere la mia vita precedente e studio appunto con questo scopo". Si deve piuttosto saper rinunciare del tutto a questo desiderio, eliminarlo completamente e studiare senza quel fine. Bisogna sviluppare devozione, piacere per ciò che si impara, senza mirare allo scopo ricordato, perché così soltanto si impara al tempo stesso a sviluppare il desiderio in modo che abbia in sé il proprio esaudimento.